l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa. La quotidianità, la politica, l'attualità economica dell'Europa viene narrata giorno per giorno da Radio 24. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Le coordinate per trovarci anche virtualmente, oltre che appunto via orecchio con la nostra diretta, euronetplus.eu, il portale del network, oppure euronetplus r24 o il mio account personale Federico Taddia su Facebook e su Twitter, piazze digitali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Oggi andremo in Israele per capire cosa concretamente sta facendo l'Europa. Prima però partiamo da un altro muro che rappresenta un po' tutte le divisioni all'interno del nostro continente. Il muro è ovviamente il muro di Berlino. Il 9 novembre verrà celebrato il 25esimo anniversario della caduta del muro, e insomma il muro come metafora di tutte le divisioni, metafore come al di qua, al di là, metafora di un'Europa vecchia, di un'Europa nuova, metafora di un'Europa che si contamina, un'Europa finalmente libera nei suoi spostamenti interni. Tutto ciò viene verrà ricordato con una mostra di cui oggi si così vive un po' una prima tappa, perché vuole essere una mostra in grado di raccontare, di mostrare veramente quella che è la quotidianità al di qua e al di là del muro. La giornata di oggi è una giornata di Happy Collection, una giornata di raccolta di oggetti di uso comune durante il periodo della guerra fredda nei paesi europei dell'ex blocco sovietico e nell'area balcanica. Tutto ciò è voluto dall'Associazione Culturale di Promozione Sociale Il Gioco degli Specchi. Con questa prima giornata si avvia questo percorso che arriverà fino al 9 novembre. Ce ne parla Maria Rosa Mura, che è responsabile delle attività culturali dell'Associazione di Trento e Rovereto. Buongiorno Maria Rosa, benvenuta all'Altra Europa. Pronto? Maria Rosa? Pronto Maria Rosa? Adesso vediamo un po'. Eccola lì, Maria Rosa che è caduta. Intanto vi do le coordinate subito per conoscere meglio tutte le attività. Ilgiocodegli specchi.org è il sito. La giornata di raccolta si tiene oggi dalle 10, quindi sta iniziando oggi alle 13, dalle 17 alle 19 presso la sala conferenze della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento Rovereto in via Garibaldi 33 a Trento. I volontari dell'associazione stanno ricevendo i cittadini che vogliono conoscere questo nuovo progetto chiamato Il Muro nel Cuore. Stanno raccogliendo oggetti. Questi oggetti possono essere lasciati o dati in prestito, possono essere portati per essere fotografati, ma questi oggetti possono essere anche solo storie di chi ha voglia di raccontare il proprio ricordo di quando viveva al di là del muro, oggi che magari è di qua dal muro, perché grazie al cielo questo muro non esiste più. Maria Rosa, buongiorno, ben ritrovata, ci sei? Buongiorno. Eccola lì, sì. Ciao, ho avuto un problema di linea. Raccontaci, cosa sta succedendo, cosa succederà oggi a Trento? Allora, siamo in una bella sala nel centro della città, la sala della Fondazione Caritro, vicino all'Uomo, e abbiamo aperto una giornata di raccolta di oggetti dell'Europa orientale e di tutta l'area balcanica, cioè dell'Europa ex comunista, oggetti che vanno dal 1945 al 1989, perché ricordiamo appunto la caduta, 25 anni della caduta del muro di Berlino. E cerchiamo oggetti della vita quotidiana e li chiediamo agli immigrati che si trovano nella nostra città, nella nostra zona, perché noi ci occupiamo di immigrazione come associazione di volontariato e vogliamo oggetti quotidiani per parlare con queste persone, per vedere più da vicino, per sapere come si viveva dall'altra parte del muro. Puoi farci qualche esempio di quali sono gli oggetti che possono appunto raccontare questo pezzo di vita, questo pezzo d'Europa? Ma proprio quelli della vita quotidiana, dagli oggetti della casa, la tazzina di caffè o il bicchiere o la bottiglia o altre cose quotidiane che magari hanno avuto un valore particolare per la persona o per la famiglia, oppure oggetti della scuola, oppure di vestiario, divise, magari un tessuto particolare che è stato creato nella DDR. Oppure non so, documenti della vita pubblica, le tessere di iscrizione al partito, la divisa dei piccoli pionieri, un'infinità di oggetti che sono magari insignificanti di per sé, ma hanno un profondo significato perché hanno condiviso esperienze personali e collettive. Certo, ricordiamo che questa iniziativa ha il supporto dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, della Fondazione Museo Storico di Trento, e tutto ciò appunto darà vita a questa mostra allestita presso le gallerie di Piedicastello, una mostra multimediale che vorrà raccontare i paesi dell'ex patto di Varsavia, i paesi dell'area balcanica, l'Albania, insomma tutto quel mondo, tutta quell'Europa nuova. Che senso ha oggi, secondo te, raccontare quella che era la vita in quegli anni per queste nuove fondamenta di questa Europa? Sembra di parlare di un momento storico e stiamo precipitando nella guerra fredda, una prima osservazione, anche forse perché non abbiamo riflettuto bene su quello che è stata la divisione ideologica dopo la guerra, e quindi varrebbe la pena riflettere, soprattutto adesso che i nostri concittadini vengono in misura molto notevole da questi paesi, sono tantissimi i rumeni, gli albanesi, i bulgari e via dicendo, e vivono a fianco a noi, quindi vale la pena intanto conoscerli di più e poi anche vedere che cosa c'era di positivo nei due campi per costruire qualcosa di positivo per il futuro senza contrapposizioni preconcettuali. Certo. L'uguaglianza è un valore per chiunque, la pace anche, però deve essere non retorica, deve essere attuata. Allora, nella discussione che noi possiamo fare adesso riflettendo sul passato e sul modo in cui si è manifestato per esempio l'idea di uguaglianza in certi paesi, possiamo costruire qualcosa di meglio, la famosa Europa che noi vogliamo anche, no? Certo, il muro nel cuore è il titolo del progetto Il Gioco degli Specchi.org per conoscere nel dettaglio tutto quello che sarà questo percorso che seguiremo sicuramente qui all'Altra Europa. Maria Rosa, ti lascio perché sta iniziando appunto la giornata di raccolta, grazie davvero e in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Gioco degli Specchi.org, adesso un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Europost-it. Geometri, ingegneri e architetti toscani a Portsmouth e Berlino. Siete laureati in architettura o ingegneria? O avete un diploma di geometra? Siete domiciliati in qualsiasi città della Toscana? Allora questo scambio potrebbe interessarvi. L'agenzia di formazione Serintform, insieme alla Regione Toscana, offre la possibilità di passare 12 settimane a Portsmouth in Inghilterra oppure a Berlino, con la possibilità di acquisire competenze in tema di bioarchitettura e bioedilizia, confrontandosi con professionisti di altri paesi. Per partecipare al progetto di formazione e mobilità è necessario non avere alcuna occupazione, conoscere una lingua straniera ed avere delle buone conoscenze di informatica. Per candidarsi c'è tempo fino al 31 luglio. Trovate informazioni e moduli sul sito dell'agenzia accreditata presso la Regione Toscana Serintform. Serintform.it. L'altra Europa. è una richiesta di pace quella che cantano gli U2, e poi basta volgere gli occhi verso le agenzie, leggi dopo raid notturno, vittime palestinesi salgono ad oltre 300. Il Parlamento europeo ha chiesto la fine immediata dei lanci di razzi su Israele, dell'azione militare israeliana contro Gaza in una risoluzione approvata giovedì. La politica, la diplomazia in azione poi si scontra con quello che è il minuto per minuto, con i morti, con i bambini ammazzati, con le immagini che tutti vediamo. La diplomazia, abbiamo detto, dell'Europa che cerca di farsi sentire, che cerca di alzare la voce. Poi c'è anche un'Europa concreta, un'Europa che cerca di agire con quello che è uno strumento essenziale, sono i fondi, una nuova tranche di aiuti dell'Unione Europea alle autorità palestinesi per il pagamento degli assegni sociali è stata erogata, cifre importanti, cifre che possono portare ossigeno in una zona dove adesso c'è la guerra, ma la quotidianità è una quotidianità di povertà, di disagio. Di tutto questo ne vogliamo parlare collegandoci in diretta con Gerusalemme. Ne parliamo con Sergio Piccolo, che è capo della cooperazione dell'Unione Europea in Palestina presso la delegazione dell'Unione Europea a Gerusalemme. Buongiorno Piccolo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, grazie a voi. Ore e giornate intense, ore e giornate drammatiche anche per voi che vivete la situazione lì, in quella terra martoriata. Qual è l'umore intanto, Piccolo, in questa mattinata? Curiosamente avete presentato un servizio sul muro di Berlino. Io ho vissuto 5 anni a Berlino Est, all'epoca del muro, mi ritrovo un altro muro qui. La situazione a Gerusalemme è calma, dopo che la settimana scorsa sono state sirene, lanci di missili, purtroppo a Gaza non è così. Gerusalemme è a 70 km da Gaza, sì. Quindi seguiamo anche noi come voi a distanza. Abbiamo letto di questa nuova tranche di aiuti dell'Unione Europea alle autorità palestinesi. Sono soldi che vengono erogati direttamente alle famiglie più povere. Come funzionano questi aiuti? Questi aiuti vengono erogati, sono assistenza sociale, sono soldi che vanno ai poveri, più poveri tra i poveri, e fanno parte di un pacchetto di soldi che si stanzia ogni anno dell'ordine di 168-170 milioni di euro. In parte vanno a sostenere i salari, in parte questa assistenza sociale ai poveri dei poveri serve per così mantenere un minimo di sicurezza sociale e anche un po' di coesione sociale, dare una speranza per quanto riguarda l'assistenza sociale. Per quanto riguarda i salari, dal 2005 l'Unione Europea tiene l'autorità palestinese in rispetto al principio stati nella reciproco rispetto alla reciproca sicurezza, e quindi costruire lo Stato palestinese del futuro. Certo. Ecco, per i palestinesi, voi che faccia dell'Europa rappresentate? Qual è la vostra presenza? Di cosa vi occupate nel quotidiano? L'Europa è il più importante donatore per la Palestina. Ci considerano il più grande alleato, soprattutto da un punto di vista finanziario. Sosteniamo la creazione dello Stato palestinese, come dicevo prima, in termini di trasferimento dei soldi, ma anche in termini di infrastrutture, di acqua, di gestione dei rifiuti solidi. L'Europa è anche una posizione molto chiara da un punto di vista politico, e cioè sostiene la creazione dello Stato palestinese nel rispetto e nel riconoscimento al diritto all'esistenza dello Stato di Israele. Questa è una posizione molto chiara che sostiene l'Europa da anni, con Gerusalemme capitale di due stati. Purtroppo non ci siamo ancora. 50.000 sono le famiglie palestinesi bisognose con le quali appunto voi anche interagite, quindi parliamo di numeri veramente altissimi. E Piccolo, sì. Ma quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni, è un passo indietro? Cioè voi siete rassegnati, siete arrabbiati, siete scoraggiati? Qual è? C'è un aggettivo che meglio può rappresentare quello che è il vostro sentimento attuale? Ma sicuramente la sensazione di frustrazione che ognuno di noi sente perché ci sono 300 morti, perché c'è un'azione militare in corso, perché ancora regolarmente ci sono conflitti in questa zona e non si riesce a venirne fuori. Vorrei sottolineare che questo succede in un contesto regionale estremamente precario e che si degrada sempre di più. Sappiamo dell'Iraq, sappiamo della Siria, sappiamo dell'Egitto, un paese di 80 milioni che oscilla, il Libano, la Giordania anche molto deboli. Quindi in questa situazione di precarizzazione regionale questo conflitto continua ed è periodicamente riesplode. Tuttavia noi, l'Europa viene da una storia di riconciliazione e dobbiamo continuare su quella strada, perché è l'unica strada che potrà garantire a Israele la sua sicurezza e ai palestinesi il diritto all'autodeterminazione, alla dignità e al rispetto dei diritti di base, umani di base, come facciamo in ogni parte del mondo. Quindi dobbiamo continuare, non bisogna scoraggiarci e continuare dando quello che è la lezione dell'Europa, una lezione di riconciliazione, di rispetto nella pace. E voi siete sul territorio, avrete anche molti contatti, immagino, dentro i territori occupati, dentro la striscia, alla striscia di Gaza. Un'ultima considerazione: la stampa, il mondo dell'informazione, secondo lei sta raccontando bene quello che sta accadendo lì? La realtà esce così per come è? Ma io vorrei ringraziare di questa domanda e ringraziarvi anche di questo breve spazio, perché effettivamente è molto difficile dall'esterno capire cosa esattamente sta succedendo. C'è un po' di manipolazione. Il susseguirsi degli eventi, dal fallimento del piano Kerry all'annuncio della riconciliazione palestinese, in un mese e mezzo è successo di tutto, abbiamo fatto 10 anni di passi indietro. Quindi credo che i media potrebbero essere forse un pochino più espliciti nel considerare la sequenza degli eventi, perché cosa è successo dopo il rapimento dei tre ragazzi israeliani, il massacro del bambino israeliano in palestinese di Gerusalemme e poi questa esplosione di violenza a Gaza. Il punto di partenza è il tentativo palestinese di riconciliarsi tra Hamas e Fatah. Ecco, questa è una cosa molto importante. I palestinesi non arriveranno mai ad uno Stato sovrano se continueranno ad essere divisi, ed è lì che forse bisogna un po' chiedersi se stiamo facendo di tutto per aiutarli. Grazie davvero a Sergio Piccolo per questa testimonianza. In bocca al lupo per il vostro Grazie. Lavoro, è importante, un lavoro Grazie. Quotidiano, una presenza operativa, una presenza che è anche un punto di riferimento. Sergio Piccolo, capo della cooperazione dell'Unione Europea in Palestina. Buon sabato. Grazie a voi, buongiorno. Europost-it. 2000 tirocini in Sicilia, cercate il vostro. La Regione Sicilia, in collaborazione con il progetto Giovani in Sicilia e Italia Lavoro, ha stanziato oltre 19 milioni di euro per l'avviamento di 2000 percorsi di tirocinio formativo e di orientamento, di inserimento professionale o reinserimento al lavoro, per giovani tra i 25 e i 35 anni, disoccupati o inoccupati da almeno 6 mesi. I tirocini sono retribuiti con una piccola borsa che varia dai 500 ai 750 euro al mese e le aziende che offrono tutoraggio ricevono 250 euro al mese. Mediamente la durata è 6 mesi e se l'azienda opta per l'assunzione del tirocinante può ricevere fino a 6.000 euro di contributo, a seconda del tipo di contratto proposto. Per le aziende interessate e i giovani che si vogliono candidare, il sito è sempre lo stesso, dove si trovano informazioni e bando. pianogiovanisicilia.com. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella bella la città, com'è grande la città, com'è viva la l'Europa, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa che ci piace anche raccontare qui all'altra Europa, senza nascondere quelli che sono i problemi, quelli che sono le criticità, però cerchiamo anche di capire quelle che sono le risorse, che sono le opportunità. L'Europa è presente nelle nostre città, anche e soprattutto attraverso i suoi amministratori, quindi ci piaceva raccontarvi di Opportunità Europa, il contributo dell'Unione Europea allo sviluppo dei territori locali, per uscire dal palazzo, per uscire, non c'è solo Bruxelles, non c'è solo Strasburgo, l'Europa poi ha le ricadute nelle nostre vie, nelle nostre strade, nelle nostre piazze, e di tutto ciò ne parliamo insieme ad Antonella Galdi, vice segretario generale ANCI, che è l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, perché c'è stato un matrimonio non solo metaforico tra i comuni italiani e l'Europa attraverso questo importante progetto. Ciao Antonella, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. L'Altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, radio24.it, il nostro sito da cui potrete riascoltare la puntata, le coordinate invece virtuali Euronet Plus R24, oppure il mio account personale Federico Taddia su Facebook e su Twitter. Con noi Antonella Galdi, vice segretario generale ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per parlare di questo progetto Opportunità Europa, il contributo dell'Unione Europea allo sviluppo dei territori locali. Antonella, cosa avete combinato? Allora, intanto grazie per l'opportunità che mi dai per potervi raccontare brevemente quello che da qualche anno stiamo portando avanti in favore dei giovani amministratori. Voi sapete che gli amministratori under 35 sono oltre 20.000 nel nostro paese e hanno necessità di essere accompagnati nel loro percorso di crescita professionale, anche per poter far meglio il loro, diciamo, mestiere a livello locale e poter fornire alle proprie comunità opportunità sempre maggiori. Certo. E in questo contesto abbiamo istituito la scuola di formazione dei giovani amministratori e in particolare parliamo oggi di questa iniziativa che abbiamo portato avanti insieme al Comune di Cuneo. Il Comune di Cuneo è stato selezionato attraverso un bando, ci ha presentato un bellissimo progetto che guardava appunto alle opportunità europee. Un vero e proprio corso di formazione per oltre 30 giovani amministratori che sono stati selezionati in tutta Italia e che hanno avuto l'opportunità di passare oltre 60 ore in aule per avere una formazione di tipo più accademico, sì, diciamo, e dall'altra parte invece iniziative vere e proprie di viaggi di studio a Bruxelles, a Strasburgo, per conoscere da vicino le istituzioni europee, non solo fisicamente ma anche conoscendo da vicino quelli che sono gli strumenti e le opportunità. Spesso parliamo di Europa parlando esclusivamente di vincoli, in questo caso abbiamo voluto focalizzare l'attenzione su quelle che sono invece le opportunità di crescita e di sviluppo per i nostri territori. Questo tutto sulla carta, in pratica come è andata? Cosa hanno riportato da questo viaggio? Grande entusiasmo, devo dire, sia nella fase iniziale noi vediamo che c'è un interesse fortissimo e purtroppo ci dispiace anche di non poter offrire maggiori opportunità ai giovani, perché le domande ogni volta che avviamo un corso e selezioniamo questi giovani che partecipano gratuitamente a queste opportunità di crescita, lasciamo a casa purtroppo tanti partecipanti, quindi ci piacerebbe nel futuro poter fare di più. Quindi oltre all'entusiasmo iniziale, devo dire, una forte aspettativa nel poter trovare delle risposte. A volte le istituzioni europee sono complesse, è complesso conoscere le regole di funzionamento, ma devo dire che i giovani se la stanno mettendo tutta in termini di energia, voglia di saper interpretare i programmi comunitari e quindi soprattutto la gestione delle risorse comunitarie. Voi sapete che siamo oggi in una fase particolarmente, certo, delicata, quella di avvio della nuova programmazione, dove vengono individuati quelli che saranno però i progetti cardine per i prossimi 7 anni, e i giovani ci sono e vogliono poter portare il loro contributo, soprattutto di idee e di concretezza. Nel caso specifico di Cuneo, devo dire, è stato particolarmente interessante, partecipavano, vi ho detto, oltre 30 amministratori provenienti da tutta Italia, Sicilia, Sardegna, ovviamente Piemonte, e sono stati accompagnati per mano dall'amministrazione comunale, dal sindaco, il sindaco Federico Borgna, che devo dire anche fisicamente è stato insieme a loro in questo percorso, accompagnandoli presso le istituzioni europee. Credo che questo sia un segnale importante. Assolutamente. Antonella, a proposito, so che è in scadenza il bando per partecipare al prossimo corso vostro, vero? Al corso di formazione. Infatti, grazie, mi dimenticavo di dire che ovviamente abbiamo il bando aperto e i termini per presentare le candidature per il prossimo anno per poter partecipare a questi corsi di formazione scade a fine mese. Tutte le informazioni sono reperibili sul nostro sito www.anci.it e ovviamente il requisito iniziale è la fascia d'età, bisogna essere giovani, quindi sotto i 35 anni ed essere amministratori locali. Amministratori locali intendiamo appunto consiglieri, assessori, sindaci, vice sindaci di qualsiasi comune italiano. Questi sono i requisiti di base e noi ci attendiamo una partecipazione anche delle richieste, così come sono state negli altri anni numerose. Ed in particolare quest'anno continueremo anche i percorsi locali, quindi i progetti avviati con i comuni, ed il prossimo master dedicato ai temi europei sarà organizzato insieme al Comune di Napoli e farà un percorso analogo a quello portato avanti dal Comune di Cuneo. Perfetto, www.anci.it. Grazie davvero, complimenti, buon lavoro, buon sabato. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao. Europost-it. Stage presso la Commissione Europea. La Commissione Europea offre 700 posti per altrettanti tirocini retribuiti, della durata di 5 mesi e che cominceranno in primavera del 2015. Per partecipare occorre avere una laurea, anche triennale, e conoscere inglese, francese o tedesco. I ruoli che ciascun tirocinante ricoprirà sono legati all'ufficio cui verrà assegnato. La sede del tirocinio è Bruxelles ed è una grande opportunità per scoprire come funzionano le istituzioni europee. Per candidarsi c'è tempo fino al 29 agosto. Trovate informazioni e bandi sul sito della Commissione Europea ec.europa.eu/stage. Robot Rock dei Daft Punk per celebrare un matrimonio. Prima abbiamo parlato di quelle che sono le contaminazioni, di quelle che sono le opportunità tra Europa e territorio, tra Europa e comunità locali. Beh, andiamo a scoprire quello che è successo, quello che sta succedendo a Doristano, proprio grazie a un progetto europeo. Con noi Filippo Uras, assessore ai trasporti del comune di Oristano. Buongiorno Filippo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno. Allora, abbiamo letto di questa prima sperimentazione di autobus automatici senza autista in giro per Oristano, il progetto europeo City Mobile 2. È tutto vero? Sì, il progetto consiste nella sperimentazione di due minibus che sono a guida completamente automatica, quindi senza conducente, sono dei veicoli a trazione elettrica di dimensioni abbastanza contenute, ma che comunque oramai stanno percorrendo le nostre strade. Le stanno percorrendo per quello che l'esperimento è unico al mondo, senza che siano su sede confinata, quindi su strade, in questo caso è un percorso pedonale, ma comunque senza nessuna barriera, Allora, spieghiamo un po' il contesto, il progetto che appunto raggiunge la sua prima tappa a 50 partner in tutta Europa, cofinanziata dall'Unione Europea. E come già hai detto tu, la peculiarità di Oristano è che per la prima volta vengono sperimentati veicoli elettrici in una sede assolutamente da quotidianità, no? Da quotidianità urbana. E stiamo parlando proprio di veicoli senza autista, veicoli indipendenti, veicoli che viaggiano nel lungomare collegando tra di loro appunto alcune zone della città senza autista. Dunque, il progetto City Mobile 2 fa parte proprio del settimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione della Commissione Europea. È organizzato da un consorzio di più di 50 partner in tutta Europa ed è coordinato dal CTL, che poi è sigla Centro Trasporti Logistica dell'Università La Sapienza di Roma. Quindi il coordinatore tra l'altro è un italiano, abbiamo questa grande ruolo. I partner quindi che stanno realizzando adesso da noi il demonstrativo, oltre che noi come comune, perché ci occupiamo chiaramente della logistica e quindi delle infrastrutture che servono perché si possa percorrere la strada in tutta tranquillità, poi c'è un'azienda locale che è l'azienda regionale Sarda Trasporti, che si occupa invece di addestrare alcuni autisti che comunque in questa fase sperimentale saranno all'interno del pulmino, anche se non guideranno, cioè non hanno la funzione di autista, ma hanno la funzione sicuramente di personale che comunque è addetto a gestire il mezzo in qualche modo. E poi una società di consulenza sui trasporti che è la MLab, e infine una ditta francese, la Robosoft, che è quella che sta materialmente realizzando i veicoli e settandoli in questa prima fase di sperimentazione. Filippo, quindi parliamo di lungomare, quindi non ci sono binari, sì. È una strada dove ci sono anche pedoni, dove ci sono biciclette, dove ci possono essere assolutamente, ostacoli. Assolutamente, le dirò di più, succede che ci sono molti ragazzini e quindi si divertono, l'altro giorno hanno proprio fatto apposta lanci di palla e quant'altro per vedere se il veicolo rispondeva alle sollecitazioni, quindi sono degli ottimi sperimentatori i nostri giovani ragazzi. Adesso sì, che non diventi una moda il lancio dell'oggetto al veicolo, però no, anche perché poi il veicolo si blocca, tra l'altro hanno tirato, spesso tiravano la palla, infatti abbiamo dovuto un pochino fermarli contro il veicolo, quindi il veicolo faceva delle frenate brusche e questo non serve, insomma non serve neanche a chi è all'interno. Però se credi, mi interessa proprio di dire che la sperimentazione ha un duplice obiettivo. Uno è quello prettamente scientifico e tecnico di settare questi veicoli e portarli a un livello tale da poter tranquillamente inserirsi nel nostro traffico e far parte della nostra mobilità, e l'altro è anche un obiettivo invece più strettamente legislativo, cioè in Italia non abbiamo una norma che preveda che questi veicoli vanno per strada, tant'è che la nostra sperimentazione avviene non con dei passeggeri, anche se tra virgolette insomma in qualche modo sono passeggeri, ma sono proprio, si iscrivono come sperimentatori, quindi noi diamo una scheda, okay. Si iscrivono come sperimentatori e poi gratuitamente utilizzano il servizio fino a fine agosto avremo gli autobus che vanno su questa strada pedonale. Filippo, ma come mai Oristano? Come è stata scelta Oristano per questa sperimentazione? Noi abbiamo la fortuna di avere all'interno dell'MLab la società che è di consulenza trasportistica, che ha già progettato, ha fatto da partner in altri sistemi che sono adesso in uso a Masdar City, in Arabia Saudita e in altre zone anche fuori dall'Europa. Ecco, dicevo, questa società MLab ha molti componenti sardi, okay. Quindi noi abbiamo avuto un aggancio con loro, ce l'hanno proposto vari anni fa, io personalmente ci credo molto a queste cose, forse anche perché non mi sono dimenticato di essere un ingegnere, quindi comunque in qualche modo credo a questo tipo di cose. Dirò che in questi momenti di crisi si legge una difficoltà palpabile sul fatto che la popolazione ha difficoltà a vedere lontano, quindi in qualche modo un investimento come questo, comunque un esperimento di questo tipo, che non ha un'immediata, proprio non è domani che poi avremo l'autobus funzionante o di linea su percorsi, ecco, quindi un investimento su cultura, perché alla fine anche questa è cultura scientifica, è difficile da, in un primo tempo abbiamo avuto qualche resistenza insomma da parte anche della nostra popolazione, cioè, ma come adesso togliamo anche un posto di lavoro, non avremo più autisti, insomma considerazioni che effettivamente nell'immediato per chi deve tutti i giorni guadagnarsi la pagnotta, ecco, sono comprensibili, anche se poi invece a lungo termine non ha nessun senso questo tipo di ragionamento, perché sennò saremmo completamente perdenti. Ma soprattutto, insomma, non stiamo togliendo posti di lavoro, modificando le professioni, i lavori, le... Certamente, sarebbe come un rifiuto di tutto quello che è tecnologia. Io ho ricevuto delle mail sull'argomento, indirizzate a me come assessore, al comune in senso più generale, proprio che dicevano, ma forse stiamo sbagliando, eccetera, eccetera. Io non mi diverto a fare ironia, però un pochino per chi ci lavora, per chi sta dedicando tempo a queste cose, ci crede, dispiace che ci sia questa mentalità. E quindi ho dovuto rispondere, dice: vi risponderei, ma purtroppo le mail sono una cosa così moderna che io non le accetto e quindi non sono in grado di darvi risposta. Però questa era solo provocazione da parte mia. Certo. Ma comunque abbiamo a che fare con delle situazioni anche di questo tipo. Però insomma anche qui insomma, sono atti culturali che devono essere messi in piedi, perché ecco, insomma, le cose vanno anche spiegate. Può interessare, ma magari ecco, ci sono già delle città che hanno già, che seguiranno noi in questa sperimentazione. I veicoli, proprio i nostri veicoli, perché stanno migliorandoli mentre li sperimentano, Sì. Andranno poi a León in Spagna Okay. Ad ottobre, mm-hmm. Poi avremo un esperimento a seguire alla Rochelle in Francia, che poi è la patria della Robosoft, che è quelli che stanno producendo materialmente i veicoli. Avremo un altro esperimento importante a Losanna in Svizzera e poi concluderemo questa serie di esperimenti fra un annetto all'Expo a Milano. Perfetto. E quindi i veicoli elettrici finiranno all'Expo di Milano come mezzo di trasporto per il grosso del pubblico. Citymobile2.eu per conoscere l'intero progetto. Non prendete, appallonate il veicolo, questo è così. il nostro appello. Grazie davvero Filippo, ciao e buona estate. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. L'altra Europa. L'atto di creare un'impresa è un atto creativo, mettere insieme un pensiero che poi diventa realtà, diventa lavoro, e rispetto all'atto creativo c'è anche un aspetto relazionale. È una specie di concept store, uno che va a curare tutto, curare una filosofia dell'immagine di una donna che maggior parte delle donne che entrano in questo centro, no, si curano da 360 gradi, diciamo, di loro corpo. Mi fa ridere a volte che ancora io ce l'ho permesso di soggiorno che devo rinnovare ogni 2 anni, però io sto dando stipendio a 4 italiani. Infrangere stereotipi in tema di migrazione attraverso le storie di donne, in questo caso di 13 donne di età e nazionalità differenti, che hanno avviato un'impresa nel territorio italiano, nello specifico nel territorio di Roma. Questo è il cuore del progetto Strane Straniere, ideato dalla scrittrice Sara Zura Lucanic e dall'antropologa Maria Antonietta Mariani. L'evento si è tenuto il 16 luglio, un po' così l'evento clou di questo percorso, che cerca proprio di portare, di far conoscere storie vere, storie reali, storie anche di successo, di microsuccesso, però quel microsuccesso che comunque crea posti di lavoro, crea speranza, crea integrazione, crea visioni. Di tutto questo ne parliamo con Anna Lasnibat, che è fondatrice con Ljuba Juvecevic della Galleria d'Arte Atelier, come ente proponente del progetto Strane Straniere. Ciao Anna, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Credo aver sbagliato qualche pronuncia, ma spero che tu mi possa perdonare. Tu sei croata insieme a Ljuba, che invece è serba. Qualche anno fa avete ideato questa galleria d'arte. La vostra storia è una delle storie raccontate da questo progetto. Sì. Qual è il cuore? Qual era la volontà comune, il filo conduttore che vi ha unito in questo percorso? Ma noi due, veramente la nostra comune passione per l'arte, comunque la nostra voglia, l'idea di mettersi in qualche modo in mostra, di rompere stereotipi, pregiudizi che ci sono sui stranieri in generale, soprattutto sulle donne straniere. E quindi 14 anni fa abbiamo fondato questa associazione culturale Atelier nel quartiere Monti di Roma, perché abbiamo trovato un posto ospitale, un piacevole, dove ci hanno accolto veramente sempre bene, e pensavamo che presentando gli artisti provenienti dai nostri paesi di provenienza, che potevamo pure presentare noi stesse la nostra cultura, la nostra diversità, però nello stesso tempo pure la nostra similitudine con il paese che ci ospita, perché poi non siamo tanto diversi quanto a volte sembra, no? Certo. Nel frattempo poi è iniziato così, soprattutto con gli artisti stranieri, però abbiamo conosciuto tantissimi artisti italiani che ormai fanno parte della nostra associazione, presentiamo pure loro, siamo diventati un posto veramente internazionale, un luogo di incontro dove si scambiano diverse realtà. Non solo, tanti italiani hanno iniziato a esporre all'estero grazie alla nostra attività. Questa è la vostra storia, poi Strane Straniere c'è la storia di altre 13 donne con veramente i campi più diversi, da una trasportatrice a una sarta, una chef, veramente tante storie molto lontane tra di loro ma molto vicine, perché c'è questa doppia caratteristica. Prima hai detto una cosa forte: gli stereotipi contro gli stranieri e gli stereotipi contro le donne. Qual è la cosa che fa più male, che ha fatto più male in questi anni, da quello che hai raccolto anche dalle altre tue colleghe? Ma a me personalmente è successo un fatto simpatico, posso dire, a questo punto. Tanti anni fa, una mia conoscente, quando ho capito che non ero italiana, mi ha detto con stupore: ma sempre normale. Il fatto alla fine ci ha fatto tutti un po' ridere, però dopo pure mi ha fatto riflettere, perché in effetti sembra normale, sono normale, sono diversa da te, però non perché sono straniera, sono diversa da te perché sono io, persona, io, Anna, no? E questo è il fatto che spesso incontriamo, no? Che ci trattano per prima cosa di quello che siamo, da dove proveniamo, non per quello che siamo realmente, no? Poi uno spesso si mimetizza, perché non subito non si vede con l'italiano, parla abbastanza bene la lingua, o varie cose per quali le persone subito non mettono questa barriera e pregiudizio: sei straniero, quindi parlo diversamente. Però poi quando ti conoscono alla fine tutto fila liscio, nel senso le persone veramente ti prendono per quel che sei. Certo. L'evento, patrocinato dalla provincia, dal Comune di Roma e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, ha seguito un percorso durato 10 mesi che ha acceso i riflettori su queste realtà imprenditoriali. Tra l'altro una realtà in crescita, perché c'è una controtendenza rispetto ai numeri della crisi, rappresenta una risorsa umana ed economica per il Paese, con un altro filo conduttore che ho trovato appunto scoprendo e leggendo queste storie, che è la creatività. Probabilmente c'è un coraggio diverso, un coraggio consapevole anche, comunque ci si butta anche in attività diverse, in attività divergenti. Non so se è una cosa che hai notato anche tu. Sì, è molto interessante, perché tante immigrate hanno semplicemente proseguito il lavoro che già facevano, per quale hanno fatto la scuola, però tante hanno iniziato a fare i lavori prettamente maschili, che comunque svolgono con grande successo e senza nessun problema, e comunque nonostante le difficoltà burocratiche, i permessi di soggiorno e tutte quelle cose così, sono riuscite veramente a problematiche economiche, ovviamente, perché per fondare un'impresa ci vuole pure il denaro, quindi sono riuscite a realizzare queste imprese in ambiti veramente diversi, dalla sartoria alla cucina, dall'arte, medicina ayurvedica, autotrasporto, editoria, e danno lavoro a tante persone che non sono soltanto immigrati, ma veramente spesso anche italiani. E Anna, tu eri architetto, la tua collega Liuba, sei architetto, ok. Liuba è biologa, sì. Però appunto avete di fatto anche cambiato mestiere. Ma io veramente svolgo... Tu continui a farla, ok. ...a fare mia attività, perché trovo che tutte e due attività sono... compatibili. Sono assolutamente compatibili. E Liuba, per motivi familiari, ha smesso di fare biologa, e quindi alla fine si è dedicata soltanto all'arte, perché comunque è il suo interesse, certo, primario. Una serba, una croata, vi siete conosciute all'ufficio immigrazione di Roma, sembra un po' l'inizio di un romanzo, che però insomma è diventato qualcosa di più bello, di più concreto, di più reale, vero? Sì, ci siamo conosciute all'ufficio cittadinanza, perché tutte e due abbiamo sposato due italiani, e quindi nell'ufficio cittadinanza ci siamo, quando abbiamo consegnato i documenti per chiedere la cittadinanza italiana. Strane Straniere. Ci siamo riconosciute. Vi siete riconosciute. Stranestraniere.com è il sito per conoscere questo bel progetto. Grazie davvero, Anna, complimenti. Grazie a voi. Termina qui la puntata dell'Altra Europa. Un grazie a tutta la squadra, Margherita Ine e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Carmelo Lauricella, oggi in assistenza. L'appuntamento, come sempre, a sabato prossimo. Ancora ciao da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.